signore, dai, vi saluto, continuate pure a risentirci, ciao. Ciao Claudio, a domani. Buona carica. Ciao a tutti, ciao, domani si lavora, Aiuto, ciao a tutti che domani si lavora. Ehi, ma non sei in pensione tu? Io sono in pensione, ma sto lavorando lo stesso, per i fatti miei. Avanti, per fuori il cappa, controllo. Avanti il controllo, c'è un'azienda mia, Tony. Avanti per il controllo, poi chiudo. Sta arrivando quasi 10 più, ok, da 9 a 10 sei 9 più 20, quindi hai visto che già l'hai trovato il linearettino per farti sentire da Giulio, eh? 9 più 20 sei, va bene, la radio non è satura. Era ora che si prendesse un lineare. Beh, il segnale è a 9.10 stasera, se adesso sei 9.20 vuol dire che sta andando, comunque. Chiede un parere anche agli altri. Gianni, do più rumore, riprendi, io chiudo. Ciao a tutti, buonanotte. Avanti Gianni. Ciao, buonanotte Cla. Ciao Cla, buonanotte. Avanti. Ho salutato, ciao Cla, di nuovo, buonanotte. Avanti Riccardi. Fate un controllo a Gianni di Muros, ma non lo sentite? Io lo sento sì. 9.15 invece che arriva qua. La radio satura praticamente. Sta andando bene, dai. Ma poi è saturo. Se tu riesci a regolare la potenza di entrata, magari esci meglio. No, c'è l'ala 48, l'ho dato io, non si può regolare. L'ala 48? Sì, c'è l'ala 48 che gli ho dato io, non si può regolare quella radio, Gianni. Non la toccare da com'è perché è stata regolata dal tecnico, non ti conviene toccarla. Non c'entra niente il Mikey Gay, Gianni ti ha detto se potevi abbassare la potenza in ingresso allineare, no il Mikey Gay, Mikey Gay non c'entra niente. Scusate se entro così razzo, vado a vedere la TV, a vedere che cosa c'è, ci sentiamo domani, ciao a tutti, ciao Claudio, torre di controllo, Claudio di Muros, poi saluto a Tonino, Gianni, Giulio e a tutti gli altri che mi sono dimenticato, ciao a tutti, a domani. Oh, oh. Riccardi, chiedi a Fabrizio se viene domani, se no poi glielo dico io. Se hai problemi con quell'MC60 o hai problemi con quel cablaggio, te le do l'MC80 mio, capito? E così usi l'MC80 nel frattempo, capito? No, adesso che passa domani dopo che ha finito di lavorare. Ok, dai, io domani intanto devo passare da Roberto, al limite se scendete ci vediamo lì. Comunque tu diglielo. Nel caso ti telefono, che se hai problemi, avete problemi con i microfoni, sia uno che l'altro, non c'è problema assolutamente, perché puoi usare tranquillamente il mio MC80 nel frattempo che lui finisca di cablare quello tuo, capito? Ho capito, va bene, glielo puoi lasciare a Roberto che tanto ha detto che deve passare anche lui, quindi glielo lasci lì e me lo porta. Comunque grazie Claudio. Ok, parla prima con lui e poi fammi sapere, se no glielo dico io. Ok, ciao, buonanotte. Gianni Capri 2 ti ha detto Gianni Doppio Room che devi abbassare l'ingresso al lineare, altrimenti si satura. Però se stai usando l'Alan 48 non si può abbassare perché quello è tarato così. Ok? Avanti Doppio Room. Se lo si abbassare, c'è un trimmer e si abbassa da lì. Il mio per dire dalla 48 è abbassato a 1,5. Ma se quello lo abbassa poi non usa allineare e non arriva da qui alla mandriga già. Ciao Torino, ciao Gianni, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ho capito due, però ricordati una cosa, che se poi tu abbassi la potenza, lo devi usare col lineare, sempre quello lì, perché se no non esci per niente. Se tu ti abbassi la potenza, devi dare la potenza del lineare. Thank you. usa una di quelle che ti danno pochi fa e vedi un po' se va meglio sull'altra parte. E io come ti arrivo? KP2? Sattro, 9-10, ha detto Sattro, ma già si capisce, dai. Senti, non ti ha preso, Tony? Ho visto, ma allora ho mangiato, ma già c'è chiamato Dino, boh. Adesso il gorrile. Portiroso. Si fa tutto il discorso da solo. Cazzo, non apri di più, no? Però ti sei confuso. Io sono Tonino Kawasaki di Sassari. Allora, ma sono quasi nulla, ma vedi. Ecco, ma vostra. A chi che bisogna rilanciare poche buche, buche. Oggi si fa solo ascolto. Attacca Antonio, digli di guardare bene. Sempre Torino Kawasaki, dimmi adesso come ti sta arrivando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E adesso guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Scusami, avanti Giulio. No, non posso parlare io. Perché? Cosa c'hai? No, perché sto guardando la televisione. Ah, prometto che anche tu stai guardando tu sì che vale. E allora? E mi sono girato la cammacchia, ho avuto una baritura, una tua. Ah, c'è Belen oggi. C'è la farfallina già. Farfallona. Allora, vedi, comunque non ce l'ha questa grande, c'è quello che cazzo è vestito che gli respinge e gli tira su. Io ve l'appoggio. Mia pompozzi, mi aspetta la spingo. Grazie caro, io te l'appoggio, non c'è problema. Te ne fido, te ne sacco, te la metto. Allora, immagini, di noi non si può fare uno. Ho capito, già. A capo di due, stavo dicendo, di due non se ne può fare uno. Sì, ma sei sato, amica, e cosa cavolo hai attaccato? Sì, sato, la camera. Mi ruba la radio. Ma un poco fa aveva migliorato. C'ha bene di fuoco, ma ti metto un bacinetto come te non abbassare le coppiature lineare che andrà a drumiglio, c'è drumiglio con la portante abbassata. Ma non vedi che sta bruciando il finale? Sembra che sta parlando con un pettine che mette la cartavellina sopra. Se continua con gli si brucia al finale, vedrai. Allora manco fate passaggi più corti. Sta andando sparendo. Non si sente quasi più. E non mi spari. La miniera salta, vedrai che salta. Ehi, sta uscendo ben basso, regola, poco fa eri più forte in radio, ho già. Oh già, stai andando a calando, secondo me si sta incendiando quel lineare. Oh, oh, sei calato il segnale, cazzo sei quasi 9.20, ti passano quelli di sasso, figurati. Staccalo, staccalo che è meglio, ma che ti si incendi tutto. Partito. Tu un po' è preso, va. Ma la voce scende di vecchio. 40 anni di frequenza lampada della garretta della Mondezza. Io guarda, solo col Kimwood l'ho sentito scendo bene, poi basta. Gianni, non te lo dovevi vendere quel Kimwood, uscivi così bene, cazzo. Adesso non c'è una volta che ti senta bene. Adesso sei meglio del radio, ma poco fa guarda, per carità, stavi andando e ti stavi azzerando il radio proprio, non giri più. Già, pare picco. come te, gli altri devi venire solo, prima di farmi tendi. Dato che già ti ha già scritti, non so se già fare picco pure, chiamati Antonello. E adesso esce come si deve, Gianni. Meno male. Cioè no, Gianni. Sì, Gianni, volevo dire. Adesso mi stavo, siccome stavo parlando con Simona, mi stavo confondendo tutto adesso. Poi avanti Tony, che c'è rimasto non lo so neanche io, perché stavo, mi sono distratto con Simona. E pochi siamo me, non più non, poi c'è Gianni Capri 2, poi c'è il Cuore X però, mette il cap. Ah, il cap no, già va bene, sono uscito a migliorare quel baracchino stasera, quello che ho fatto io, ho omologato. Ci ho messo DM1000, io ho fatto la regolazione dentro al microfono, c'è un trimmer e sono uscito a farlo andare senza fischiare, meno male. E più di quello non lo posso fare, Tony. Lo lascio così come se la piglia in culo a un certo punto. Poi vabbè, c'ho l'FM500S, c'ho il coso, il Codex 4000 che ho agganciato a Giovanna stamattina, anzi non sapete stasera, con l'antenna a filare, che l'ho messa nel terrazzino, e poi l'altro palattino già non sai quello grande, e portatele, a voi la roba, basta avanti. Ma c'è che superstar. Sì, cioè, sono prestato il 2009, in pratica con la maschera è tornato, 34S. Allora, il Codex 4000 che ho messo, il frontalino è prestato il 2009, infatti se tu guardi la fotografia che ha fatto Giovanna stasera, al salone, c'è cioè, prestato il 2009, ha agganciato con il vigile di tutti i ciclofuri in terrazzo, con l'antenna filare a canola pesca. Ma non la vedo la fotografia, Giovanna, non ce l'ho sul film. L'ha messa stasera, quindi dovrebbe esserci, ma se incontro da me, penso che ci sia. L'ha fatta stasera la fotografia, verso le 6:30. Io cosa mi posso comprare? Sì, trovate cosa devi comprare. L'effettivo 857D, sotto me 500 euro, prendi dal volo, nuovo, nuovo, nuovo, e hai finito di comprare roba, e sei a posto. Ma Jesu. Esatto, Jesu, come quello che ho io, preciso, te lo faccio vedere, vieni a casa, ti faccio vedere la scatola, ti faccio vedere l'apparecchio, e te lo prendi uguale. Nuovo, nuovo, nuovo, te lo faccio vedere, te lo accendo avanti, così vedi tutto quello che fa, lo provi anche, così almeno sei più tranquillo, inutile avere un apparecchio vecchio, almeno ce l'hai nuovo, di ultima generazione, e sei tranquillo. Non è aspettare più soldi per riparazioni e di niente, per qualsiasi cosa, ce l'hai nuovo e basta. Scusa, anziché Antonè di farmi venire a te e farmi vedere la scatola, mandami la foto su WhatsApp e lo vedo, va. Sì, se per questo ti posso mandare quante vuoi su WhatsApp di quelle foto, cazzo. Ma a che prezzo ti posso mandare? In vendita ancora. $1,027, figurati tu. Già te lo mando dopo, va? Su WhatsApp. Ma ce l'hai tu così, eh? Sì, ce l'ho io, guarda, preciso identico. Ma lo stai vendendo? No, non lo vendo io, caro. Quello me l'ho preso però perché ero stufo di comprarmi Kenwood e roba del genere. E VHF, quindi mi sono pigliato un quadribanda, ce l'ho, nuovo nuovo e me lo spengo. Infatti ho detto, non vedo più niente, basta, è finito così la... E nuovo nuovo, se tu vedi il mio, passa a casa, in questi giorni ti faccio vedere come funziona e te lo prendi uguale. Se c'è qualcuno 500 euro che lo trovi su internet, se te lo pigli al volo. Ma fammi capire, è stazione fissa? Stazione fissa e mobile fa, tutti e due in pratica. È un HF mini si chiama, per esattezza. Anche a me la Roma Verona non mi piace, eh. Mi piace tipo il Kevodo così. Allora pigliate uno di quelli cinesi, costa la metà, di 500 euro, è grande, c'ha tutto, e cinese, fa tutta la frequenza HF, ce ne sono tanti, su AliExpress, basta controllare, ci sono state le base, HF, fa di banda e costano la metà di quello, vabbè, intorno ai 500, anche 300 euro trovi, nuovi fiammanti. E dopo cerco su Express a vedere Giulia e Corix che si è guardato la farfallina di Belen, avanti già. E anch'io sto cercando su Express. Stai cercando sesso? Sì, la sera dove nemi? Oh, è nato un sito stasera, tutto di troia, cazzo. Dovevi vederlo, cazzo Tonino. Mi sono messo solamente a ridere, cazzo, tutti col culo in fuori. C'era da ridere stasera, cazzo, guarda. Non ho mai visto una cagata del genere, cazzo, su Facebook, la verità. Tutte donne nude, col culo parato, fuori. Ma va a far culo, è diventato un troiaio, guarda, no. Ma non so più guardare una cosa del genere, perché fa schifo, solo a vederlo, cazzo. Tutto il sito di incontri, ma adesso addirittura c'è anche la foto del coso di davanti delle donne, roba che dovrebbero censurare, eppure c'è, l'ho visto oggi. Ma dove? Su Facebook, hanno fatto un sito nuovo. Io ho detto, non sesso, ho detto Express. Se tu andi a ticcarli l'inverno, vai forte la ciabbia lì, se non li cerchi quei siti non li trovi. No, io ho detto AliExpress, ho detto. E così ho capito il contrario, ho detto, se vuoi il sito strano, ho detto. Ne è nato uno da poco, gli ho detto. Si chiama Stop Europa Tan Edizione. Hai capito? E di tutto si vede, curi e anche davanti, che è roba allucinante. Io la verità l'ho eliminato immediatamente, perché io cosa leggevo non lo voglio manco vedere, a parte il telefonino lo guardano anche i bambini, i miei nipoti, non voglio che vedano il culo e il coso davanti delle donne, in chiaro, in scuro, in chiaro. Antonè, sì, non ci posso chiedere, ma cioccio, che non è... mi mata quello che ho. Stavo scrivendo Maracchini, mi dice quello macioccio. Ascolta a me, com'era quello piccito del Maracchino che mi stai dicendo cinese e poi... Ti ho detto da poco fa, AliExpress si chiama. AliExpress, ho chiamato Zecco, un attimo sta mai. Guarda, vendo di tutto, mi anche è intima per donne, uomini, eccetera, eccetera, quindi non ti spaventare. Comunque c'è di tutto, radio HF, di tutto vendono, antenne, ci sono delle antenne veramente belle che costano anche poco la verità, che fanno un sacco di frequenze, 10, 20, 40, 80, costano una cazzata. Se non parli, dimmi il segnale. Adesso vuoi bene, 9.25 e 9.5, vedi, adesso è una cosa come si deve, a me, ma poco fa, poi tutto santo, lo vedi, poi andavi che piano piano calavi di segnale. Ho resistito alle tue parlantine. quelle solite cose. Ma devo mettere qualche cosa, è possibile? Ah, io, ma a caso non ne avete, il letto non ne avete, no? No, non ne abbiamo, aspettiamo a te e facci parlare nanna. Ah, meno male. Ciao, ti saluto, ti hai sentito. Devo andare qua di banda, devo andare, mi faccio qua, ACB 27 radio 26 965 27 405 58 euro, figura di due. Chi è se? Ui, cosa cavolo c'è? C'è un bel roba, c'è cazzo, devi controllare. Ma ce ne sono parecchi apparecchi veramente belli, anche qua di banda. Devo guardare radio e telecomunicazione in pratica. Ci vedremo qua, basta controllare il discorso che quello lì, sono qua, vabbè. Ecco qua. Via esso. Adesso FTD X5000 MP HF 50 Megas 204 multifunzione 5500, cazzo, 5.541 euro, già è poco bello però, ma è grande, cazzo, minchia, si nota niente, cazzo, poi ci sono tanti altri, basta che ti fai un giro. Ma devo scrivere qualcosa, devo scrivere, se no non lo va. No, va, però basta che ti scorri le pagine, hai capito? Ci sono gli apparecchi HF, ci sono, basta guardare. Attore, sono mezz'ora, giri di pagina, se prendi a me la stessa cosa, io. Sopra, se vuoi bere, c'è una lente e puoi scrivere quello che ti stai cercando. Allora, che è voluto? Che è un DTS 590 SG, stato per base, 2525 euro. Questo è come quello che c'ha Stefano, tale uguale grande così. Poi cosa diavolo c'è? Chiesa, FT 89.000, 310. Però questo è VEU, che è un discorso diverso. Bisogna girare, vabbè, quando ci vediamo già, ci facciamo un giretto e con il telefonino mio te lo guardi e poi te lo guardi il tuo, te lo ordini, non c'è problema, faccio vedere come funziona e così lo vedi subito. Ok, tira avanti. Tutti cercando apparati, buonasera comunque. L'unica cosa che voglio comprare adesso sì, è il trasmettitore FM per la radio privata, 15 watt, in FM stereo, così mi collego, come si chiama, e mi metto a fare il maniaco, cazzo, solo quello, così mi diverto. Ecco qua, c'è un HF, conversione, si chiama MAT 30 120 watt HF automatico, autopanner. Il capore è questo ricevitore, da dove, no? Conversione, il sensore automatico, no? Sì, dice trasmettitore, si chiama... Quindi è uscito radio, ah, un coso, un componente da lanciare a coso, non c'entra nulla quello, sembrava un aggeggio che si aggancia in plastica sopra la trasmettitore. Poi ci sono tanti di apparecchi strani che stanno vendendo adesso. Bisogna girare, girare piano piano, ma girare. Sì, ma dove stai guardando? AliExpress, il sito cinese. Ah, pensavo su Subito. No, AliExpress, ecco. Di 9.000, nuovo pittore, 50 km alta potenza, 950 euro, 950 euro, 800 centesimi. Non vedo solo che bisogna guardare, cazzo, bello è quello. Poi c'è ultimi in 10-15 watt, RS, SSB, HF, SDR, Amateur Saver, 355 euro, 90 centesimi. Ne hanno venduto 15 di questi, ma sono belli, è veramente bello questo apparecchio qua. Alta potenza, vabbè, c'è anche il coupon se lo vuoi, di cosa. 355 euro, 49 centesimi, ma bello, bello, veramente bello. c'ha la, il misuratore di campo, tutto va. Ce ne sono pochi, ultimi, 10, 15 watt, RS 918, SSB, HF, SDR, AM, tracere, potenza di trasmissione da 5 a 30 MHz la frequenza. Tony. Io non ho visto neanche un apparato qua. Boh, chissà cosa hai scritto tu. Allora te lo mando, là. Aspetta che lo faccio vedere. Te lo mando e te lo posso vedere. WhatsApp. Vabbè. Mi sembra molto foto su WhatsApp, non c'è problema. Al limite te lo mando su Messenger, non c'è problema. Quindi te lo guardi, là. Sì, nel senso. Però su quello all'Espresso e a Torrenze non metti la voce, ti ha sempre le solite cazzate che girano le pagine. Senta che devo comandare. Se metto l'altro direttamente su Facebook, aspetta, così lo vedi adesso. E fai prima. Eia. E beh già, prometto di sì. Cinque. L'altra, lo spinò. Già fatto, sicuramente roba interna, perché sinceramente stavo facendo una manovra, mi stava per cadere il microfono e l'ho preso al volo, però non ho... le connessioni sono belle isolate, tutto quanto, guardo tutti i cavi, non tocca uno con l'altro, però l'interno della carcassa del microfono non ho guardato sinceramente. Ecco, registrato, sì. E a me me lo facevano, mi lasciavano la porta anche inserita, ed erano due montagne che mi avevano fatto, due saldature della montagna, che toccavano una con l'altra, ma ti prego. Ciao delinquenti della frequenza, buonasera, Gianni da questa parte. Ciao Gianni, ciao. Allora. Ciao, profe, com'è questa radio diversa? Non ho toccato niente, l'ho accesa adesso, sono rientrato a casa, ero al circolo con degli amici, mi sono bevuto una birra, sono rientrato adesso, avanti. Ah, quello c'è di dentro. Ah, stavi facendo con quella, No, sono assolutamente lucido, guarda, mi sto mettendo la simile al telefono. Appagato. Non è amplificata come al solito, già. Riesci a trovarmi così? Fuori X per me, vattio. Ciao Tony, ciao. Si è perso. Gianni, il profeta non riesce a mettere la simile al telefono. O sono io forse che ci ho messo il volume, aspetta, non vuol dire cazzate. Perdonatemi ragazzi, non volevo disturbare il vostro acquaseo, scusatemi. Ma non sto disturbando niente. No, adesso va bene, dai, ce l'avevo io, basso il volume. Ma che disturbo Gianni, che disturbo? Stiamo parlando alla nanna, figurati. Non ho capito perché hai detto così, non ho capito. Non lo so, Gianni. Capa Roger, no, guarda, sono entrato adesso in camera. Ho acceso la radio così a livello agli olio e mi sono buttato dentro. Hai fatto bene. Gianni, non c'hai niente, dai, ero io che c'avevo il volume basso. Bene. Comunque, buonasera a tutti, sono entrato così in scivolata, in stile Pasquale Bruno, quello che rompeva le gambe del Torino, per intenderci, dai. Appagata, dai. Non c'è problema, già, c'è problema, tanto siamo pochi ma buoni. C'è anche KP2, mi sembra sentire a KP2, Gianni KP2, ma chiuso già? Sì, Gianni ha salutato, Ah, ecco. No, perché sono andato a farvi l'iniezione, mi sono allontanato 5 minuti. Sì, ha chiuso. Però mi hanno salutato, quindi. E allora Gianni, cosa ci racconti? Bene, dai. Ero dopo un po' di casanza forzata tra virgolette, sono andato a trovare degli amici qua a un circolo di Sassari Vecchio, quindi sto tornando adesso, dai. Dove vedi la lucciola? Si è rilasciato. Dove vedi già la lucciola? No, negativo, ero zona università da un amico. Ah, cappa. Qui c'è anche un mio amico in quella zona lì che c'era. C'è una specie di trattoria, si chiama Mangio da Mondo. Positivo, ho capito di chi stai parlando. No, non è lui. Comunque, zona università, quella è una sorta di, chiamiamola, tipo osteria trattoria, dai, ho capito di chi stai parlando. Appagato. Andare. Sì, vabbè, ogni tanto già va bene. Io stamattina ho trovato un amico, ci siamo usciti al bar, ci abbiamo preso il caffè. E da dove va? Uno non ha fatto, uno dall'altro. Bene meda, certo. La socialità innanzitutto, se no veramente abbiamo perso, come si suol dire. Dai, non mi volevo mettere, non mi volevo intromettere nelle cose vostre, dai. Tino, cosa ci combini, dai? Ma niente di particolare, stavo cercando qualcosa su internet, ma non c'è niente di interessante, dai. Se ti può essere interessante, stavo parlando di Belen. Ecco, vedi, quello mi piace. Ma magari ha consumato più botti, vabbè. Il resto lo lascio immaginare a voi, dai. Diciamo che volevo salutare. Chi è? Avanti, buonasera. Avanti, chi è che ha detto voglio salutare? Allora vi saluto, vediamo aspetta questa. Vi sto ascoltando e perciò mi sembra giusto che ascolti. E voi non lo sapete che io sono qui dietro che vi ascolto. Perciò vi saluto. Chi è già? Io lo ascolto Santiago proprio. Santiago 2 radio quasi zero. Ti sto ascoltando perché non c'è qua RM, dai, ti salutiamo anche noi cordialmente. Non ho capito chi sei. Fabio, ma aspetta questa. Fabio, sì. Capo, ciao Fabio Master, ti ascolto più Pio, io organizzati porca miseria che qua non arrivi Sì, devo riuscire a spostare l'armadio perché non ha fatto il filo per l'antenna, lì. Lo so, fa la legna questo armadio, vabbè che sta arrivando anche il periodo caldo, non fa neanche bruciare una stufa, però qua arrivi più Pio, un salutone comunque Fabio. Ciao a tutti, quindi. Niente, dai, io faccio ancora un po' di RX e poi farò quelle sì. Però io ve lo dico che vi ascolto, tanti no. Noi però siamo apprezzati. Dammi un controllo Fabio, anche se hai l'antenna così a uncinetto. Ascolta, Fabio passa il giro che ti guardo con la turbista. Prova a vedere, dai, a ver se riesco a entrare dentro casa tua, perché sei a livello correme proprio qua, Allora, sullo speaker sì, Santiago, quasi 8, la radio è ottima, potrei anche darti 4 e mezzo. Andavè, va bene, dai, per dove sono già va bene. Vai Gianni. Sì, io come ti avviso, Fabio, guarda la mia. Allora, la radio è un pochettino più bassa, sarà di livello, siamo sui 4, Santiago siamo a 7, buoni. Dai, fai qualcosa anche tu, così almeno riusciamo a sentirti meglio. Purtroppo non ti ho copiato adesso, è già confesso un po' qualcosa. Sto parlando a voce bassa perché sei un disturbo, capito? Ah, capo, la radio è fatta per questo. Ma stamattina eri in giro al mare sole? Io stamattina sì. Mi sei passato a fianco, eri 9:60. Io ero in macchina, sì. Sì, ti ho detto, portatilino, trova anche adesso. Qui 9:60, forse mi hai anche sentito. No, non ti ho sentito. Sì, ero con portatili, infatti. Comunque vai portatilino, se te ne fai un po' in alto, Monte Bianchino, secondo me, quello va bene. Perché ti ho sentito fino a quando sei lì lontano, ti sei avvicinato, stai girando per sasso di mezzo ai palazzi, uscivi benissimo. Diciamo con l'antennina, ce l'hai presente quell'antenna base magnetica che usavano negli apparati SOS, quelli in Max? Una cavo di antennina, però stavo uscendo bene, capace che io con la Turbo 2001 non ci riesco, vedi? La Turbo 2001 ha bisogno di un buon piano di massa, se non metti al centro cappotto nella macchina la Turbo 2001 ce la guida e va da tutte le parti. Ma per dire, no? Tu con l'antennino hai fatto miracoli, e invece magari chi si attrezza con apparecchio serio e antennona magari non esce, capito? Quello già è vero. L'ho messo a posticciarete, così sono andato a fare la spesa e gli ho messo l'antenna. Ehi, ho seguito, stavo ascoltando. Anche se, vabbè, poi sì, sono entrato, poi ho fatto il controllo veloce perché mi hai spaccato lo speaker. Sono passato sotto casa tua sicuramente. Dove abiti? Dove c'è la frutta e verdura? Praticamente sì. Solo che era paramobile. E niente, a un certo punto mi ha parato tutto squalciato. È uscita la tua voce a palla, capito? Non ero al corrente di questo, dai. Potevi anche chiamarmi, caro. Potevi dire fermati, se ho preso caffè. Ehi, aspetti avanti, però in conversazione c'era Claudio col microfono nuovo, Natalino, tutta la compagnia, e siccome hai chiesto il controllo ti hanno detto sto arrivando Santiago 7, sotto in quel momento mi hai spaccato il baracchino, ho detto aspetta che lo ricuro io, glielo faccio io il controllo bello, 9:60. Che va bene, avanti. You know. Eia, già, sto leggendo. Meglio. Tonino, ripeti? Ah, Gianni da questa parte, doppio uno, dai. Salutoni a Fabio Massa, l'ascolto molto molto bassino, dai, Santiago 3 comunque. Gianni Lubrofetta qua, zona stazione, avanti. Cappa Gianni, salutoni, ci sentiremo meglio in seguito. Se ci sentiamo bene, vai tranquillo, che è colpa mia. Tranquillo, no, non c'è problema. Capisco, perché anche io sono partito l'MLM terra a terra, quindi non ci sono problemi. Curiosità, come ti sta arrivando su da te? Qui mi giochi sul 7 più o meno, hai dei picchi positivi e fai sul 7 fai più o meno, più o meno, più o meno. La radio è un po' bassina, anche perché ho molti rumori qua, sta sul 3,5. Mi sono, c'ho il mic gain abbassato, dai, non voglio strappare. Bene, Meda, ok, dai, che ore sono? 23:20, dai, comunque, rifaccio il saluto di circolare a tutti quanti, dai, mi fumo una sigaretta, faccio, insomma, rimango un po' qua in baracca e poi niente, dai, avanti Tino se sta smanettando sul sito di Belen, dai. Poco a smanettare, poi magari mi viene la voglia e tocca un po' la scatola mia moglie e poi magari rimango anche deluso, perché sai, non è sempre che si può. Va bene, dai, ne approfitto per ora col Mike, anche perché devo preparare qualcosa al bimbo. Ogni tanto mi viene, ma ho fame, noi abbiamo mangiato una mezz'oretta fa, adesso mi è venuto a fame anche a lui. Vabbè, tocca stargli dietro. Il piccolo è tremendo, è un frantoio, quindi bisogna accontentarlo, visto che è piccolo. Quando sarà grande gli dirò di zapparsene. Va bene, vi saluto, ora che ho la possibilità del mic, vi saluto e niente, ci si ascolta le prossimine. Buonanotte, tante cose belle, riprendi Gianni, ciao a tutti. Ciao Tino, ciao, ci sentiamo, dai, buonanotte. Avanti Gianni, poi ti devo fare un interrogativo. Ehi, dai, salutoni te, dai, buone bistecche, buona cena, vabbè, i bambini, le anime piccole sono come delle locomotive, hanno bisogno del carbone, quindi bisogna sempre buttargli il carbone, dai. Comunque dai, buona carica alla prole e ci sentiamo un altro momento. Sì, saluto anche voi e faccio un QRX di qualche minuto e poi sarò quasi qui. Buon proseguo, buonanotte, grazie per aver parlato con me. Sempre una cosa molto bella. Alle prossime, ciao. Va bene, dai, altresa ti fa. E già ci fa piacere. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao ciao. Oh Gianni, ma l'antenna nuova hai messo? No, negativo. Negativo doppio. Salutoni a Master. Salutoni a Fabio, dai, è la prima volta che ci sentiamo in contatto, dai. Ci sentiamo nel prossimo. No, già, non ho cambiato niente. Sono successe altre cose, ho dovuto dare priorità e quindi per il momento l'antenna è sempre la stessa, dai. E vabbè, sempre benissimo, quindi non c'è problema. Non ti preoccupare, non è una cosa urgente, prima le cose urgenti poi le altre. No, ma infatti, cioè, come si suol dire, nel mio piccolo sono dentro una botte di ferro, dai. O il minimo indispensabile, quindi non mi preoccupo. No, dovevo far fronte ad altre necessità e quindi l'antenna era l'ultima in classifica, dai. Vabbè, non c'è problema, sono le priorità nella vita, no? Prima si pensa alle cose urgenti, poi alle altre. Avanti Fabio si è addormentato. No, ha detto che si è spostato un attimo prima di chiudere. Ah, appagato. Mi sa che anche noi chiudiamo tutto. Ce l'abbiamo andata, Ehi, dai, oggi stasera stavo parlando con Zurigo, cioè voglio dire, nel mio piccolo, poi alla fine con la propaganda sono riuscito ad arrivare anche a Zurigo, quindi cazzo, c'è da leccarsi i baffi, dai. Guarda che tu stai usando un apparecchio buono, e quello anche che conta, c'è un apparecchio che vale male. Ehi, dai, cos'era? Diego si chiama questo ragazzo, adesso non mi ricordo, stavo usando un President, non era Lincoln, era un altro, forse un President Jackson, e qua arrivava 6-7, dai, comunque siamo riusciti a fare un piccolo collegamento. Va bene, dai. Piccola spesa, molta resa con piccola spesa, dai. Sì, c'è, quell'antenna lì qui è buona, l'ho avuta anche io, è sempre stata una bella antenna. Andare già, dai, io vado, ti auguro buonanotte, saluto tutti cordialmente, sempre Antonino, salutatelo e via. Bene, meda, dai. Dai, come dice qualcuno, correttore esecutivo, dai. Buonanotte già, dai, e a tutti gli ascoltoni sul 10 e sulla 27, dai, ci aggiorniamo alla prossima, buonanotte. Ciao Fabio, buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte anche a voi. Ciao.